Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi raccontiamo la storia di un uomo che adesso ha 64 anni, però è ancora alto, è un fisico asciutto. Le donne ne parlano bene, insomma io non sono pratico di questo argomento, però parlano di sguardi affascinanti. E da poco è stato insignito del prestigioso premio Pulitzer. Il personaggio di oggi è un giornalista molto particolare, perché prima di essere un reporter specializzato in politica e esteri è stato ben altro, è stato un surfista. E proprio grazie alla sua autobiografia dal titolo Barbarian Days, Surfing Life in Italia, Giorni Selvaggi, ha fatto un bel volo in alto. Il surf era ed è ancora attraversato dal filo d'acciaio della violenza. Non intendo il bullo che ti capita di incontrare in acqua, che ti sfida per il diritto di surfare uno spot, no. Sto parlando dell'affascinante violenza delle onde che si infrangono. È una costante. Nelle onde basse, nelle onde più deboli, è una violenza modesta, innocua, tutt'altro che pericolosa, facile da tenere sotto controllo. Ma quest'idea cambia non appena le onde diventano più potenti. I surfisti chiamano la potenza succo, e nelle onde più impegnative il succo è l'elemento critico, l'essenza di quanto cerchiamo là fuori, mettendo alla prova noi stessi. Il personaggio di oggi si chiama William Finnegan. È nato nel 1952 a New York, però è cresciuto tra Los Angeles e le Hawaii. I suoi genitori sono i figli della Grande Depressione, vorrebbero una famiglia numerosa. Lui è il primo di quattro figli, nasce a Manhattan sulla Seconda Avenue, in un appartamento al quarto piano senza ascensore. Il padre, che è giornalista e sindacalista, sborsa $1 al mese per parcheggiare il passeggino dal barbiere al pian terreno. Gli anni di formazione sono trascorsi tra letture impegnate e le onde del Pacifico, perché poi va a vivere in California, in una casa sperduta tra le colline, tra serpenti a sonagli, vagabondi, coyote. Però d'estate lui va al mare ed è lì che a 10 anni scopre il surf. E William non si dimentica quando e dove è successo. Era a San Onofre, una località dove andava spesso assieme a un'altra famiglia d'amici, e lì c'erano le onde migliori di tutta la California, le onde fatte per surfate lunghe e tranquille. È qui che molti dei surfisti avevano modernizzato il design delle tavole dopo la Seconda Guerra Mondiale, ed è qui che loro si erano fatti le ossa, proprio a San Onofre. E lui a 10 anni cavalca le prime onde su una tavola verde presa in prestito un giorno d'estate. Nessuno gli dà istruzioni, lui non ha paura, va al largo remando con la testa china attaccata alla tavola, e intanto osserva gli altri, studia le mosse, prova a imitare i surfisti, e poi ci riesce con facilità, e da quel momento non si ferma più. Sono gli anni in cui inizia a diffondersi la moda del surf, grazie anche a un film, Gidget, un film del 59, e poi c'è anche una serie TV. You see before you me, Gidget. For 15 and a half years, my life was a complete and total ick. But then, on the 23rd of June, two things happened. I fell in love with two things. E arriva il giorno del suo 11° compleanno. È un giorno speciale perché il padre gli fa un grande regalo. Lo porta al Dave Sweet Surfboards, che è un negozio di tavole da surf a Santa Monica. Il ragazzino, che ha 40 kg, alto 1,5 metri, sceglie una tavola usata più grande e pesante di lui, $70, per realizzare un sogno. E lui è un bambino felice, pronto a esercitarsi appena può sul ritmo di Surfing USA dei Beach Boys. Let's go surfing now, everybody's learning how. Il padre di William lavora come aiuto regista in alcune serie televisive, tra cui il dottor Kildare, Operazione Uncle, quando viene assunto come direttore di produzione di una nuova trasmissione, un varietà musicale di mezz'ora ispirata a un programma radiofonico locale, Away Calls. La famiglia Finnegan deve trasferirsi alle Hawaii. La sola idea di vivere alle Hawaii, William salta dalla gioia, eccitato e felicissimo, si immagina sempre in acqua, non si intristisce all'idea di dover lasciare i suoi compagni di scuola e la sua casa, perché finalmente per un ragazzino di 13 anni che ama il surf c'è un sogno che si avvera: trascorrere la vita tra le onde delle mitiche Hawaii. il falco e il gabbiano. Il pomeriggio dell'arrivo della famiglia Finnegan nella nuova casa alle Away, William neanche entra per litigare coi fratelli e la sorella sulle camere, sull'assegnazione dei letti. Lui ha altre cose più importanti da fare. Deve fare subito la sua ricognizione delle acque locali. Ma appena si avvicina al mare, però, rimane deluso perché vede delle piccole onde con la barriera corallina bassa. La situazione non è ideale. Poi, però, in controluce sotto il sole vede quello che sta cercando, dei surfisti in azione. Allora torna sui suoi passi, prende la sua tavola, si infila un costume e, incurante del caos del trasloco, scappa verso l'acqua. Yes, we moved when I was 13 from California, where I grew up. Ci siamo trasferiti dalla California, dove sono cresciuto, quando avevo 13 anni. Mio padre aveva ottenuto un lavoro alle Hawaii e quindi ci siamo trasferiti là. Mi hanno iscritto a scuola e la cosa è risultata abbastanza dura. La scuola era piena di gang. I ragazzi si dividevano per etnie, c'erano pochissimi bianchi e ci si picchiava in continuazione. Non è stata una buona scuola per quel che riguarda l'istruzione, ma è stata un'ottima scuola di vita. Vivevamo ad Honolulu, sulla spiaggia, vicino ad un ottimo posto per fare surf. Io facevo surf già da qualche anno, quindi ero eccitato all'idea di trasferirmi alle Hawaii, come un sogno diventato realtà. Quando non stavo a scuola, ero in acqua, nell'oceano. Era un sollievo indescrivibile. Le onde erano diverse da quelle della California, più grandi, più belle, più eccitanti. Mi sono fatto molti amici sulle onde, tutto il contrario di quanto succedeva a scuola. Era il mio rifugio dalla scuola. E quella che abbiamo appena ascoltato è la sua voce, la voce del nostro protagonista, William Finnegan, intervistato dalla nostra Alessandra Tedesco subito dopo aver preso il premio Pulitzer proprio per la sua autobiografia. Nel suo libro lui racconta che a scuola si trova subito coinvolto in risse, in combattimenti tra gang, partecipa a zuffe violente, c'è sempre qualcuno di un'etnia diversa che è pronto a farsi avanti, e la coesistenza non è possibile in nessuna parte del mondo, figuriamoci lì. Insomma, tagli, lividi, occhio nero. William li giustifica questi tagli con il football, con il surf, sapendo che gli adulti non lo avrebbero aiutato. Comincia a sentirsi meglio quando finalmente entra in una gang di bianchi Ahol, sono chiamati così dagli hawaiani, bianchi venuti da fuori. È una gang piuttosto aggressiva. Nel gruppo peraltro ci sono diverse ragazze che attirano la sua attenzione, però nessuno è un surfista. Così William prende la sua tavola, va da solo al mare a studiare i ragazzi più grandi e le loro movenze, la loro eleganza sulla tavola, come racconta in Giorni selvaggi, edito da 66th and Second. Le onde sono il campo da gioco, il fine ultimo. Sono l'oggetto dei tuoi desideri e della tua ammirazione più profonda. Allo stesso tempo sono anche il tuo avversario, la tua nemesi, il tuo nemico mortale. L'onda è il rifugio, il tuo nascondiglio felice, ma anche un territorio selvaggio e ostile, una realtà indifferente e dinamica. A 13 anni avevo smesso in pratica di credere in Dio, ma questo nuovo sviluppo aveva lasciato un vuoto nel mio mondo, la sensazione di essere stato come abbandonato. L'oceano per me era simile ad un Dio insensibile, infinito nella sua pericolosità, dotato di un potere smisurato. Eppure, perfino da bambino, eri tenuto a misurarti con lui ogni giorno. E arriva la prima gara under 14, lui naturalmente si iscrive, arriva secondo, ma ormai è chiara la sua totale dipendenza dal surf. È una passione irrazionale, forse anche per il vuoto di fede o di affetti che lui comincia a sentire. Poi c'è un altro mondo, però, è quello della terraferma, che non c'entra col surf, che ha a che fare con lo studio, i libri, le ragazze, i fratelli, la scuola, la famiglia, gli amici, quelli che non hanno tavole. Per un anno lui deve tornare a studiare a Los Angeles e lì cresce, lui supera la timidezza, anche perché comincia a provare la canapa indiana, e lì è il momento elemento chiave, l'erba, si diffonde a Woodland Hills, così come si diffonde la musica rock. Arriva Jimi Hendrix, arrivano i Doors, Bob Dylan, i Cream, i Beatles, quelli psichedelici, arriva Janis Joplin, arrivano gli Stones. Poi arriva il giorno in cui il padre viene richiamato ancora alle Hawaii, la famiglia si trasferisce lì di nuovo, per lui è sempre una gioia perché le onde nelle Hawaii sono migliori che a Malibu o a Santa Monica. E siamo alla fine degli anni 60, le Hawaii ritrova i suoi amici, le sue onde, e poi incontra anche le droghe, la marijuana, l'LSD, che sono ovunque, soprattutto a Waikiki. È il periodo dell'estate dell'amore, l'epicentro è San Francisco, dove arrivano le nuove tendenze musicali, gli hippie pacifisti, i fricchettoni, quelli che rivoluzionano il sesso, che protestano contro il sistema. Insomma, anche nel mondo del surf prende piede una rivoluzione, si passa alla shortboard, il mondo del surf si schiera contro la guerra, molti surfisti sono renitenti alla leva, la rivoluzione sulle onde è una rivoluzione di grande impatto, al contrario di una longboard, cioè c'è questa shortboard che è una tavola più corta che ti permette di entrare con precisione nel ventre dell'onda, si può surfare nel tubo, nel tunnel, il tube riding, cioè scivolare attraverso la camera segreta delle onde scavate, insomma è una cosa che comincia a diventare alla portata di molti. Il falco e il gabbiano. I rituali della cannabis, la bellezza della musica che c'era in quegli anni spingono il nostro protagonista, che è William Finnegan, il grande surfista, almeno fino a questo punto della storia, perché poi c'è altro da raccontare, spingono William Finnegan a cercare la libertà una volta tornato alle Hawaii. E stiamo parlando di musica tipo Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, i tre suoi idoli che peraltro scompariranno di lì a poco, e il 30 luglio del 70, due mesi prima della sua morte, lui fa proprio un concerto, Jimi Hendrix, gratis a Maui, lì alle Hawaii. Durante questa esibizione viene girato un film su di lui, Rainbow Bridge, dove si alternano le immagini dei surfisti e le immagini sul palco di Jimi Hendrix. E lui intanto legge moltissimo, ha un debole per le filosofie anticapitaliste, per diciamo il terzo mondismo, ha 18 anni, siamo nel 71, con la sua fidanzata fa dei pellegrinaggi ai festival rock, poi si iscrive all'Università di Santa Cruz in California, appena può, però viaggia per il mondo e fa surf. Well, surfing has a quality different from most sports. Il surf, per definizione, è diverso dagli altri sport. Richiede quasi un'ossessione, un impegno ossessivo solo per imparare. E una volta che hai imparato, cerchi le onde migliori. È un viaggio trovare quelle onde. Ci sono onde fantastiche sulle coste di città molto conosciute, ma sono posti troppo affollati come Malibu o altri posti famosi nelle Hawaii. Quindi viaggi di continuo in posti remoti per trovare onde che non sono mai state scoperte, per essere il primo a surfarle. Serve molto tempo. Questa è la vera voce di William Finnegan ai nostri microfoni. Questi sono gli anni in cui si sta diffondendo la cultura del surf. Lui la pratica, però la sera legge, scrive, è curioso, è una mente viva e agitata, e poco dopo i 20 anni parte alla ricerca delle onde, perché ha finito gli studi, va in giro per 4 anni, viaggia nel sud del Pacifico, in Asia, va in Australia. E in quel periodo, negli anni 70, il padre si sta occupando della produzione di un telefilm storico, Hawaii 5-0, con Jack Lord. La prima produzione inizia nel 68, l'ultima terminerà nel 1980. Abbiamo un indizio, Steve. Ha saltato la rete come un gatto. E questa è l'impronta più nitida. Non è certo un granché. Comunque fatene un calco. Ok. Era vestito di nero. Si deve essere strappato i pantaloni sul filo spinato. Tessuto un po' insolito. Fatto a mano, credo. Fallo avere subito al laboratorio. Certo. E il tempo, come sempre, passa veloce mentre William cresce tra i viaggi, tra il surf e tra le sue prime collaborazioni giornalistiche, perché tiene i diari della sua vita, si guadagna anche da vivere facendo il barman, insomma è uno che fa tante cose, scrive articoli per le riviste di surf. E nel frattempo però, in quegli anni, fa successo un film diretto da John Milius, un film datato 1978, dedicato proprio al mondo del surf. Il regista presenta una sorta di avventura autobiografica in ricordo dei propri anni giovanili passati a Malibu, e la storia di una generazione che cavalca le onde, e il film è il celeberrimo Un mercoledì da leone. Va anche lì indietro! A quanto pare sì, lo regge il Padre Eterno quello. E me Johnson con la mia tavola! Ah, viva Mexico! Donne calienti, marijuana! La compagnia si ingrandisce, mi sono sposato! Momento di separarci. Guardatevi la pelle, E intanto William prosegue con la sua vita da curioso, da irrequieto, sta 2 anni in Australia, poi va in Indonesia, in Thailandia, arriva in Sudafrica, a Cape Town, dove trova un posto da insegnante in una black high school. Siamo nel 1980, che è l'anno di una grande e intima svolta per lui, perché fino a quel momento si era dedicato alla, diciamo, alla finzione narrativa, al romanzo. Ora nella sua vita irrompe l'esigenza di raccontare le cose vere, irrompe insomma l'esigenza del giornalismo. Eh sì, perché in Sudafrica si stanno vivendo i giorni dell'apartheid, della violenza, di conflitti tra professori e Stato, insomma è da quell'attivismo, da quel periodo molto duro, lui esce giornalista, che è un mestiere peraltro che svolge tuttora. E in Sudafrica i grandi scontri lo cambiano, lo fanno guardare alla politica, al giornalismo, alle questioni legate al potere, al suo senso della giustizia. Vuole scrivere per lavoro. Nell'83 torna negli Stati Uniti, inizia a collaborare con il New Yorker, poi scrive un libro proprio sulle proteste sociali in Sudafrica, quelle alle quali ha assistito. Il suo lavoro da giornalista lo porta anche dove non c'è più il mare, non ci sono le sue amate onde. E poi si sposa, diventa padre, però intanto va dappertutto, va in mezzo alle guerre civili, va a incontrare mondi sconosciuti. I suoi reportage sono marchiati dalla sofferenza, dall'ingiustizia, e nel vecchio confronto tra lavoro e surf la sua dedizione di uomo adulto, diciamo, per il lavoro fa rallentare il suo desiderio di cavalcare le onde. Intanto nel 91 arriva sui grandi schermi Point Break, Punto di rottura, diretto da Catherine Bigelow e interpretato da un giovane e molto promettente Keanu Reeves. È il massimo dello sballo, non c'è niente di meglio, nemmeno il sesso. No! Nessuno si muova! Noi siamo gli ex presidenti! Metti in gioco tutto te stesso, c'è solo un filo sottile tra la vita e la morte. No! Vuoi beccare i rapinatori di banche e diventare un eroe? Certo che lo voglio. No! Gli ex presidenti sono surfisti. Io non sono farabutto! Stai cercando di dirmi che l'FBI mi pagherà per imparare il surf? Lui ti farà arrivare oltre ogni limite. Questo sarà un gran giorno. Che direbbero i contribuenti se sapessero che stanno pagando un agente federale per fare il surf e rimorchiare, raga? Ma comunque, anche negli ultimi suoi 10 anni a New York, il surf rimane nel suo cuore. Il primo amore non si scorda mai, ha detto qualcuno. E quindi, quando le condizioni meteo lo consentono, lui prende la sua muta e va via verso il mare. E quindi voglio lasciarvi con una riflessione fatta direttamente da lui, da William Finnegan, al microfono di Alessandra Tedesco. È la riflessione sull'onda perfetta. Well, surfers talk about it too, but they also know. I surfisti ne parlano, ma sanno in qualche modo che non esiste. C'è una specie di ideale platonico dell'onda perfetta, quando dici: oggi è stato perfetto. Ma non ci sono gradi di perfezione. O è perfetto o non lo è. Le onde non sono come alcuni elementi immobili della natura, non sono diamanti o rose, che sono fantastici nelle loro forme. L'onda è un evento in un momento violento, è acqua che si muove molto velocemente ed è l'ultima espressione di una energia che arriva da migliaia di chilometri di distanza, tempeste, flussi di corrente, maree che arrivano sulla costa ed esplodono. Non esiste l'onda perfetta, c'è un'onda grandiosa. C'è un'onda grandiosa in modo trascendentale, ma non c'è l'onda perfetta. Esiste un'onda bellissima, eccitante, veloce, potente, sinuosa, ma la perfezione è solo un'idea. William Finnegan, la sua ricerca di questo santo graal dei surfisti, cioè l'onda perfetta, ma intanto una vita da persona attiva, curiosa, insomma un cervello vigile e viaggiatore. Ci sono storie spesso sconosciute di persone che questo colpo d'ala non hanno saputo dare, hanno volato in alto, hanno lasciato un segno come il protagonista di oggi, ognuno di noi nella sua vita. Può rischiare di cadere, però può anche dare quel colpo d'ala che lo porta a volare in alto, come il falco, come il gabbiano. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui volete che si punti il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, venite a cercarmi nei miei Facebook, Twitter, nei miei social, nei nostri social, insomma se volete lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.